Il punto di Stefano Folli. C'è anche una competizione a sinistra e ieri Bersani ne ha fornito un esempio. L'idea di rivedere le spese militari e in particolare l'acquisto dei cacciabombardieri F-35 è arrivata un po' all'improvviso ed è il segno che il Partito Democratico soffre appunto la concorrenza a sinistra. Non Vendola, che è un alleato piuttosto leale, ma la galassia Ingroia, senza escludere il movimento di Grillo, che è sì trasversale e indefinibile, ma porta via voti anche all'area del centro-sinistra. Più di tutti però il duello è con Ingroia. L'appello al voto utile per ora funziona poco e l'ex PM è stabilmente nei sondaggi sopra il 4%. Un tempo c'era la regola di nessun nemico a sinistra per l'antenato dell'attuale Partito Democratico. Oggi qualche nemico a sinistra invece c'è e nemmeno Bersani può evitarlo e allora cerca di neutralizzarlo.